Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, un buon sabato, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Nadia Zammitti, che è in redazione con me a confezionare anche la puntata di quest'oggi, Carmelo Lauricella, che gli darà musica e ritmo. Chi ha sbirciato la pagina Facebook del nostro programma ha capito di cosa parleremo. Parleremo di Cina, del congresso del partito che è in corso in questi giorni e in queste ore. E allora vi invito fin da adesso a dire la vostra. Saprà la Cina ergersi come contraltare rispetto agli Stati Uniti negli equilibri geopolitici del mondo? Che sfide attendono il colosso asiatico? La mail nessunluogo@radio24.it, gli sms per domande a me e ai miei ospiti 349-238-6666, Facebook appunto nessunluogolontano-radio24, infine Twitter nessunluogo24. Ma adesso andiamo a Pechino. The Communist Party has united all ethnic groups across the country and led the people. We have also transformed the old underdeveloped China into a new China that is prospering. E queste erano le prime parole di Hu Jintao, che giovedì ha aperto i lavori con un discorso lunghissimo, chilometrico, 100 minuti appunto di discorso. Ha elencato quelli che sono i problemi che la Cina, il partito e l'apparato devono risolvere. Ha citato in particolare la corruzione, ma poi andremo nel dettaglio di quelle che sono le brecce che forse si stanno aprendo nel grande, potente, forse la più grande macchina politica del globo, che deciderà la leadership che guiderà la Cina per i prossimi 10 anni. È un momento importantissimo, proprio a pochi giorni dalla conferma di Obama dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, alla presidenza. Questa sera indagheremo meglio che cosa sta accadendo in questo congresso, che cosa si decide, come, e anche cercheremo di capire quali, come dicevo, le grandi sfide negli anni a venire. Quindi do il mio buonasera intanto da Pechino Antonio Talia di AgiChina. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche a Claudia Starita da Roma. Astarita, buonasera. Claudia Starita, docente di politica cinese alla John Cabot di Roma, alla LUIS, e fra l'altro ha un blog, Oriente Express se non sbaglio, su panorama.it. Partiamo però da Pechino con Antonio Talia, corrispondente da Pechino appunto per l'AGI. Antonio, innanzitutto la prima domanda è: che aria tira in questa notte lì a Pechino? Dunque, beh, intanto fa freddissimo. Però al di là delle note meteorologiche, sicuramente il 18° congresso, lo Shubada, come lo chiamano i funzionari del Partito Comunista Cinese, il grande 18, è l'appuntamento più importante dei prossimi 10 anni. Quindi c'è una Pechino molto sorvegliata, nella quale ci sono delle misure di sicurezza molto pesanti, e dal divieto ai tassisti di fermarsi nei pressi di Piazza Tiananmen, dove c'è la grande strada del popolo dove si svolge il congresso, fino alle pattuglie di volontari, che di solito sono dei pensionati, sì, che stanno a ogni angolo di strada a controllare che tutto sia armonioso e che tutto si svolga secondo le regole. Tutto è pronto per la più importante liturgia del Partito Comunista Cinese, che deciderà la leadership dei prossimi 10 anni. Adesso torniamo anche sulle importanti e anche, se volete, da un certo punto di vista bizzarre misure di sicurezza. Appunto, una di queste riguarda il volo dei piccioni in questa Pechino blindata. Ma andiamo a Roma, da Claudia Astarita, a cui chiederei: le sfide sono tante, cercheremo nel programma di oggi di analizzarle, di passarle in rassegna per capire quali muri deve saltare Pechino da qui ai prossimi 10 anni, ma le chiederei in prima istanza una sfida su tutte: qual è la principale che deve appunto fronteggiare la Cina? Economica, perché comunque sul successo dell'economia si basa il consenso della leadership del partito, e va da sé che una nuova leadership ne ha bisogno più che mai, insomma. In più avremo tra poco, cioè la Cina tra poco verrà guidata da un nuovo politburo, un nuovo gruppo di politici, e in qualche modo insomma avranno, porteranno avanti o creeranno una sorta di nuova Cina, no? Che deve affrontare oggi più che mai una serie di problemi urgentissimi e di conseguenza non possono permettersi di trascurarne neppure uno, quindi economia in primis e poi io direi ambiente, equilibri sociali, politica, politica interna, politica estera, quindi... C'è tanto da fare, nessun dettaglio è stato trascurato nella preparazione di questo congresso, abbiamo citato le misure di sicurezza, e allora torniamoci sopra con la voce di Rachel Liu, cofondatrice della rivista online Tea Leaf Nation, che si occupa di analisi dei media e dei social media cinesi, e a lei abbiamo chiesto un'opinione su come i cinesi hanno recepito e come si sta dividendo l'opinione pubblica cinese sui membri della leadership del partito. Ascoltiamo. Penso che l'opinione pubblica cinese abbia sempre avuto attenzione ai processi di transizione della leadership, e adesso con la diffusione dei social media la gente può esprimere meglio e più liberamente le proprie opinioni. Se prima si chiacchierava a cena o tra amici, adesso si usa Twitter, Weibo o altri microblog per scambiare opinioni. Per quanto riguarda però il 18° congresso del partito, direi che i sentimenti diffusi tra la gente sono misti. Un sentimento riguarda per esempio il fatto che siano state adottate massicce misure di sicurezza a Pechino, e molti pensano che tutta questa mobilitazione sia oltre misura. Per esempio, molte compagnie di taxi hanno eliminato le maniglie sopra i sedili posteriori perché a Pechino non vogliono che ci sia più di un passeggero per macchina. Anche molti negozi, tra quelli dei marchi più grandi, si sono trovati in difficoltà e quindi, certo, misure di questo tipo sono state commentate sui social media, ma di questo il partito è consapevole. Sanno dei disagi che hanno creato alla gente in questi giorni, specie nel centro di Pechino. Bisogna anche dire che il processo di transizione politica non è molto trasparente. Specialmente dopo aver seguito le elezioni in America, la gente ha visto come funzionano i processi democratici e come si può eleggere direttamente il proprio leader. Mentre qui in Cina si può vedere solo come cambia la leadership, senza poter capire nulla di come e perché è cambiata. Per questo le elezioni americane sono un argomento largamente condiviso nei social media. E sulle note del gruppo rap tibetano Yudrug, ma poi il capitolo Tibet lo apriamo più avanti. Andiamo avanti nella nostra analisi. È in corso il congresso, il 18° congresso del Partito Comunista Cinese. Si rinominerà la leadership, coloro che andranno a guidare la Cina per i prossimi 10 anni. Tante le sfide, e proprio a pochi giorni di distanza dalla riconferma di Obama alla guida degli Stati Uniti, e allora potete dire la vostra su questa dicotomia in qualche modo, no? Il mondo è diviso a queste due grandissime superpotenze economiche e militari. Quanto la Cina saprà giocare un ruolo fondamentale nei prossimi 10 anni? Quanto nel faccia a faccia con gli Stati Uniti saprà farsi valere? Dite la vostra al 349-238-6666 oppure su Facebook, dove già c'è una domanda ma è molto tecnica e quindi c'è già del, come dire, andata più nel cuore del problema, e quindi la girerò ai miei ospiti più tardi. Torniamo invece a Pechino. Tra le varie sfide, Antonio Talia di Agi, tra le varie sfide, la stessa leadership, lo stesso Hu Jintao, ha ammesso che la corruzione è un grosso problema. La vita politica cinese nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, è stata toccata da enormi scandali. Noi stessi, nell'edizione estiva del programma, ci sentimmo ad agosto perché c'era il processo alla moglie di Bo Xilai, e poi c'è stata l'inchiesta scottante del New York Times sui fondi occulti. Insomma, da qui, dall'Italia, la sensazione è che in qualche modo questi scandali abbiano aperto delle crepe, insomma, e possano minare in qualche modo la credibilità, no? L'autorevolezza, l'autorità stessa del partito. Antonio. Sì, allora, gli scandali si sono susseguiti quest'anno con una cadenza quasi cronometrica, tanto da far pensare che comunque in qualche modo fossero, non dico pilotati, però agevolati proprio dalla lotta interna alla leadership. Qui stiamo parlando di un procedimento, di una successione politica molto opaca. Quindi vengono scelti i leader della nuova generazione con, come ricordavate, dei procedimenti che non vengono comunicati alle masse, e in qualche modo il Partito Comunista Cinese non è un blocco monolitico, ci sono vari gruppi, varie cordate, e sicuramente la corruzione è stata ricordata come uno dei punti principali nel discorso di Hu Jintao, della Grande Sala del Popolo, addirittura come qualcosa che può mettere in discussione l'autorità del partito, può minacciare l'autorità del partito unico, ed è sicuramente un problema che viene sentito moltissimo a livello della popolazione. Ma si vede con dei dettagli quasi quotidiani. Il pechinese medio deve aspettare moltissimo tempo per avere, anche se acquista un'auto, deve aspettare tantissimo per avere un'automobile, per avere una targa che gli consenta di circolare, eppure Pechino è piena di auto che circolano senza targa, che sono delle auto di persone privilegiate, di persone che hanno comunque dei collegamenti, delle guanci, si dice qui, con il partito, e che quindi possono permettersi di infrangere impunemente le regole. Questa situazione è molto sentita a livello popolare e sicuramente crea del malcontento. Tutti gli scandali che si sono susseguiti nell'arco di quest'anno hanno sicuramente in qualche modo, non dico minato la fiducia nel partito, perché poi questo è un argomento molto complesso, sì. Però sono un argomento centrale, e sicuramente il richiamo di Hu Jintao, del segretario del partito, alla questione della corruzione diventa quasi un monito alla futura leadership. Sì, cioè dice, insomma, è un problema che va assolutamente risolto, pena la sopravvivenza stessa del sistema. Antonio, ti devo interrompere perché c'è l'informazione, il GR, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano a Pechino. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Garbage Dump è forse l'unico esempio di punk cinese. Il pezzo di Hey Yong risale agli anni 90 e la rabbia punk ci accompagna e ci fa tornare a Pechino, dove c'è Antonio Talia, corrispondente dalla capitale cinese per Agi. Antonio, si parlava degli scandali usciti quasi con un timing a orologeria. Fra l'altro tra poco esce un tuo libro che, come dire, getterà nuova luce su questi eventi che hanno scosso la politica cinese. Sì, si tratta di un ebook che esce subito dopo la conclusione del congresso, quindi venerdì prossimo, con la casa editrice Informant, e cerchiamo di ripercorrere lo scandalo Bosilai, il leader epurato che in teoria avrebbe potuto diventare uno dei leader più importanti del comitato permanente del Partito Comunista Cinese, sì. E poi appunto tutto quello che ne è conseguito, perché è stato veramente un anno di scandali. Il libro si chiama I giorni del dragone, e tutto questo ha sicuramente determinato una lotta interna nel partito, fra le varie fazioni, fra le varie anime che lo compongono. e in qualche modo adesso siamo alla resa dei conti. Bisognerà capire se Xi Jinping, che comunque è il prossimo segretario, sarà un leader capace di davvero esercitare la sua influenza e quindi imporre le sue politiche, o se invece sarà un leader che all'interno del comitato permanente del Politburo, che comunque è il cuore del potere cinese, sì, dovrà sottostare a una serie di veti incrociati che non gli permetteranno di decidere davvero. Allora, hai citato il Politburo, la struttura del partito. Cerchiamo di fare chiarezza e ascoltiamo insieme una scheda. Giovedì 8 novembre si è aperto, nella grande sala del popolo a Pechino, il 18° congresso del Partito Comunista Cinese, che durerà fino al 14 novembre. La più potente macchina politica del pianeta, con oltre 82 milioni di iscritti, alla guida di 1.300.000.000 di persone, celebra il suo rituale più importante, il rinnovo della propria leadership. Il congresso del Partito Comunista Cinese si tiene ogni 5 anni. Le edizioni che hanno luogo negli anni dispari sono preparatorie, mentre le edizioni degli anni pari conducono al radicale rinnovamento dei membri del Consiglio, che guiderà la nazione per i successivi 10 anni. Anche per questo motivo il 18° congresso, detto Xi Ba Da, Grande 18, è così importante per il futuro della Cina. I delegati presenti al congresso sono 2.268. Tra questi ci sono 34 imprenditori privati e per la prima volta 26 lavoratori migranti. Il congresso si riunisce per eleggere i 350 membri del comitato centrale del partito, che a loro volta nomineranno il vero gotha del Partito Comunista Cinese, ovvero il segretario generale del partito, i rappresentanti della Commissione Militare Centrale, i 25 seggi del Politburo e i 9 membri del comitato permanente dentro lo stesso Politburo. Le tre gambe su cui si regge la macchina dello Stato cinese sono il partito, l'esercito e il Consiglio di Stato, che ha il ruolo di governo esecutivo. Il presidente uscente Hu Jintao occupa anche il ruolo di presidente della Repubblica e di presidente della Commissione Militare Centrale. Il suo discorso d'apertura al congresso è durato oltre 100 minuti, durante i quali ha toccato temi scottanti come la necessità di implementare riforme politiche, ma senza specificare di che tipo, e di combattere la corruzione, pur senza fare accenno ai singoli scandali. Contrariamente a quanto previsto da alcuni esperti, nel suo discorso Hu Jintao non ha preso le distanze politicamente da Mao e dal maoismo, che comincia a risultare datato per la nuova borghesia urbana e per i suoi valori. Ha anzi ripreso alcune espressioni e parole d'ordine del fondatore della Cina comunista, ribadendo che la priorità del partito resterà quella di favorire l'interesse del popolo e che il futuro della Cina continuerà ad essere legato all'economia. A conclusione del congresso, Hu Jintao lascerà il posto di segretario del partito al suo successore designato Xi Jinping, che in marzo assumerà anche la carica di presidente della Repubblica Popolare. Allora, questo è in sintesi l'organigramma della più potente macchina politica del mondo. Lasciamo per un attimo Antonio Talia a Pechino, andiamo a Roma da Claudia Astarita, docente di politica cinese alla John Cabot e alla LUIS. Astarita, lei ha citato a inizio trasmissione la grande sfida, quella principe, che è quella dell'economia. Indissolubilmente legata ad essa c'è quella dell'ambiente, perché chi produce tanto inquina tanto. Ah certo, no, infatti sono due cose che vanno di pari passo. Se le vogliamo riprendere tutte e due brevemente, ora il discorso economico, noi sentiamo parlare da tempo del fatto che la Cina abbia bisogno oggi di cambiare il suo modello di sviluppo, un modello che è sempre stato trainato dalle esportazioni, cosa che è diventata per ovvie ragioni ancora più urgente con la crisi economica internazionale, perché naturalmente i due principali mercati di sbocco, Europa e Stati Uniti, hanno iniziato a ridurre in maniera significativa le loro importazioni dall'Oriente. La prima alternativa era quella di fare in modo che fosse la domanda interna a trainare l'economia cinese, un modello che non ha funzionato, non sta funzionando, o meglio, non ha lo stesso impatto che ha avuto che hanno avuto le riforme economiche iniziate a fine anni 70 da Deng Xiaoping. Quindi la Cina ha bisogno di continuare a produrre, ma a questo punto anche ad esportare. servono nuovi mercati alternativi. Non a caso noi vediamo una Cina sempre più interessata a creare rapporti con tutte le nazioni sostanzialmente, sì. Perché ultimamente si è interessata non più solamente all'Africa, all'America Latina o al classico sud-est asiatico, ma addirittura al Medio Oriente. E però se la Cina continuerà a produrre con questi ritmi, ovviamente il discorso ambientale prima o poi dovrà affrontarlo. Ora, quello che fa oggi è molto poco, però noi sappiamo che l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, le falde acquifere, i terreni sono in condizioni, io direi, quasi irrecuperabili. E purtroppo in una grossa fetta della nazione, non sono limitati a una singola regione, quindi in qualche modo isolabili. Sì. Di nuovo sottolineo purtroppo, gli scandali alimentari sono diventati all'ordine del giorno, notizie su riso al cadmio, acqua al cloro, maiali ai metalli vari, latte alla melamina o altri prodotti alterati chimicamente ancora, magari in questo caso per tenere bassi i prezzi, o non solo per l'inquinamento, insomma diciamo che stanno peggiorando significativamente la situazione del paese. Sì. E tutto questo non è sostenibile, non è sostenibile a livello interno, perché poi la popolazione che si ammala per questi tipi di problemi protesta. E non è sostenibile anche da un punto di vista di crescita continuativa, perché poi insomma la Cina non può nemmeno diventare la discarica del mondo. Certo, no, ma poi citava un aspetto, non per essere cinici, ma insomma come dire, il consenso si basa anche su condizioni di vita accettabili. È chiaro che insomma, se tratti male i tuoi, se li fai morire, qualche problemino, qualche altro che crepe, no, nel sistema. Ci stiamo avvicinando, la interrompo a salita perché tra poco c'è il traffico e poi l'ultima parte della trasmissione. Volevo lasciare un po' di spazio agli ascoltatori e alle loro domande. In questo coinvolgo anche Antonio Talia di Agi da Pechino. Antonio, un ascoltatore. Ci solleticano molto sulla politica estera, adesso ci andiamo, ma un ascoltatore su Facebook scrive: considerata la crescente divisione tra interno della Cina e costa est, si potrà ipotizzare uno scontro tra tradizionalisti legati all'ovest e modernisti legati all'est, non tanto nel congresso, dice l'ascoltatore, ma sul lungo termine. Antonio? No, allora questa è una suddivisione un po' complicata, perché comunque anche nelle zone dell'ovest c'è il problema dei migranti che devono andare ad est per lavorare, per sopravvivere. Secondo me la suddivisione invece più interessante è tra le varie zone industrializzate, per esempio il Guangdong, che comunque è una roccaforte dell'imprenditoria e che già avvia delle politiche molto progressiste e molto liberiste, quasi per liberiste, e invece le zone nelle quali viene dato più spazio alla situazione, alla divisione fra ricchi e poveri. In qualche modo gli abitanti delle zone più industrializzate, che hanno un reddito più alto, cominciano a chiedersi perché debbano pagare anche per tutti gli altri, perché non debba essere loro consentito di avere delle libere iniziative di imprenditoria secondo le regole che vigono nel resto del paese. Quindi questa, le divisioni, diciamo, queste diverse Cine a più velocità, insomma, sono un elemento critico. Lo dicevo prima, le informazioni sul traffico, poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. Non solo sulla nostra pagina Facebook, nessun luogo lontano trattino Radio 24, ma anche al 349-238-6666 i commenti e le domande degli ascoltatori. Prima Roberto da Roma scriveva 500 milioni di europei divisi e indecisi su tutto, con monete diverse, politiche economiche, fiscali e sociali agli antipodi e soffocati dalle burocrazie nazionali di Bruxelles, lasciano spazi enormi di influenza geopolitica e economica ai cinesi, oltre che agli Stati Uniti, purtroppo sarà ancora per decenni. Questo è il commento di Roberto. E poi c'è un'altra domanda che apre un po' il capitolo, gli scenari della politica estera cinese, capitolo importante, cruciale, e dice: volevo sapere come si comporteranno gli Stati Uniti con il debito pubblico, visto che anche quasi la metà del debito stesso è in mano alla Cina. Inoltre, questo possesso della Cina può influenzare la politica statunitense. Allora andiamo a Roma per cercare di capire meglio, con Claudia Astarita. Astarita, il rapporto Cina-Stati Uniti, come possiamo fotografarlo dal punto di vista di Pechino? Ma secondo me è molto difficile, diciamo, riuscire a capire chi influenza chi, perché sono due paesi che hanno assolutamente bisogno l'uno dell'altro. Quindi io sono, voglio dire che sono contraria, perché poi tutto può succedere, però diciamo che scenari di tensione forti non ne vedo, sia sul piano economico sia sul piano politico. Non possono come dire, mettersi l'uno in guerra contro l'altro. È vero, gli Stati Uniti continueranno a cercare di sensibilizzare la Cina su un discorso di diritti umani, ma con la consapevolezza di non riuscire a ottenere chissà quale risultato. E quindi ecco, io non credo che cambierà tantissimo, credo però che già questo sia un buon risultato, ovvero che questi due paesi continuino a rimanere in equilibrio. E ora vedremo, perché gli Stati Uniti hanno detto che vogliono significativamente aumentare la loro presenza in Asia, e va da sé che questo riavvicinamento può essere percepito in funzione anticinese. Non a caso gli Stati Uniti si stanno riavvicinando ai loro alleati storici, quindi Giappone, Australia, India, in seconda battuta Nuova Zelanda, però o Corea del Sud, però insomma questo non significa che faranno una politica anticinese, anche perché dal mio punto di vista nessuno di questi paesi permetterebbe loro di fare una politica anticinese. Quindi un equilibrio più largo, ecco, sì. Io definirei così il rapporto che noi vedremo nei prossimi anni. Ecco, in questa delicata partita a scacchi che gioca la Cina, gioca con gli Stati Uniti, c'è un campo particolare che è quello africano, dove la presenza cinese ormai è consolidata da anni, ma incentrata sull'aspetto commerciale, mentre gli Stati Uniti si concentrano su quello della sicurezza. E poi però c'è un altro capitolo che mi preme a toccare, vado a Pechino da Antonio Talia: le isole contese, la tensione con il Giappone. Però prego, Antonio, ti prego di essere ipersintetico perché siamo quasi in chiusura. Questa contesa, questa tensione con queste isole, appunto, contese col Giappone, che ruolo, che valenza, che importanza hanno per Pechino? È una questione, come dire, di economica, o è una questione di puro principio? C'è una questione energetica, perché comunque le isole contese hanno delle riserve energetiche molto importanti. C'è una questione di pesca, banalmente, perché chi controlla queste isole controlla delle rotte di pesca molto importanti. E poi forse c'è una questione interna, cioè in un momento in cui comunque ci sono stati degli scandali che si sono susseguiti in tutto l'anno, stornare l'attenzione della popolazione verso le questioni interne e dirottarla verso un nemico esterno, che poi è quello tradizionale in qualche modo, cioè il Giappone, sì. È servito anche a sicuramente a sviare in qualche modo, non mettere certe in discussione i problemi interni. Ecco, diciamo, questo è un gioco politico vecchio, insomma, quanto la storia politica stessa. C'è un altro capitolo che è dolente, è nevralgico, è quello del Tibet. Le agenzie dicono che sale a 17, se non erro, il numero dei tibetani che si sono immolati solo nelle ultime settimane, appunto per protestare, per perorare la loro causa contro Pechino. Però negli anni, come dire, la causa tibetana è sempre passata, sì, mediaticamente abbastanza, come dire, ripresa, se vogliamo, però Claudia Astarita non è mai diventata quel formidabile grimaldello in grado, no, di scardinare il potere cinese, di metterlo di fronte anche ai suoi errori, alle sue contraddizioni. Potrà cambiare qualcosa nel futuro? La protesta tibetana può veramente diventare un cavallo di Troia in qualche modo nell'apparato cinese? Ora, definitemi pure pessimista, però io credo che in Tibet il compromesso sia letteralmente impossibile. C'è una richiesta di autonomia da un lato e dall'altra parte un terrore che porta a una necessità di controllo totale. Non a caso ogni volta che c'è anche una piccola protesta la regione viene militarizzata, e non a caso, io ci terrei a sottolinearlo, una delle pochissime questioni territoriali che sono ancora aperte da parte della Cina è quella con l'India, che riguarda l'Arunachal Pradesh, che è un territorio tibetano in cui c'è un monastero molto importante in una località che si chiama Tawang, con cui appunto la Cina non riesce a raggiungere un accordo con l'India dal 1962, pur avendoci provato tante volte, perché sì. La Cina vuole questo territorio perché lo ritiene tibetano e vuole controllarlo così come fa nel resto del Tibet e nelle regioni tibetane invece della Cina, quindi al confine con questo paese. E secondo me con queste premesse la Cina non si può permettere di mollare il controllo, e alla base di questo credo che ci sia un po' una paura di fondo che una personalità carismatica come il Dalai Lama possa in qualche modo compromettere la stabilità del regime. La Cina ha sempre temuto ogni potere alternativo, fosse questo politico ma anche economico o religioso, e il Tibet rappresenta un caso di questo tipo, quindi ecco, per questo io resto pessimista. Allora, abbiamo 2 minuti, quindi vado al volo a Pechino e chiedo veramente risposte telegrafiche. Antonio Talia, si sta parlando al congresso del Tibet o è, come dire, anche il nome stesso non si può pronunciarlo? Ieri c'è stata la conferenza stampa della delegazione del Partito Comunista che governa il Tibet. Mm-hmm. La posizione è sempre la stessa, le autoimmolazioni vengono ispirate dall'estero, dal Dalai Lama, e sono delle sostanzialmente delle autoimmolazioni che sono dei terroristi di fatto, sì. Quindi c'è una chiusura totale sulla questione, e lo stesso governatore del Tibet ha continuato a dire che il Tibet è la provincia, che Lhasa è la città più felice di tutta la Cina, sì. Quindi c'è una chiusura sicuramente. Grazie Antonio Talia per quest'ultimo tuo commento, ti saluto, ti lascio al tuo lavoro, è notte lì fonda, ma insomma ne è ancora da fare. Buona serata e buon lavoro Antonio. Grazie a voi. Claudia Starita, l'ultimissima domanda telegrafica, abbiamo detto questa partita a scacchi giocata tra Stati Uniti e Cina, un delicato equilibrio, le chiedo proprio una risposta sì o no, è destinato questo equilibrio USA-Cina a perdurare per molti anni o qualcosa potrebbe, come dire, sparigliare le carte? È la Cina che potrebbe cambiare tutto, perché deve riuscire a superare questa transizione bene, deve riuscire in qualche modo a rimettersi in carreggiata. Grazie Claudia Starita, davvero pochi secondi, non mi resta che ringraziare appunto lei, gentili ascoltatori, per essere stati con noi, Nadia Zammiti, Carmelo Lauricella, che hanno confezionato con me la puntata. Noi siamo in partenza per l'Afghanistan, quindi sabato prossimo e quello successivo 2 puntate speciali. Per adesso un saluto da Giampaolo Musumeci.